Letture di Radio 24. Iniziato con la scomparsa di David Bowie e finito con quella di George Michael, il 2016 verrà ricordato come l'annus horribilis per gli amanti della musica. E i primi mesi del 2017 non sono stati da meno. Perché quindi non creare una radio dedicata solo ai cantanti morti? Ci ha pensato un noto DJ inglese. E tra i dinosauri del rock, in molti si stanno già toccando. Domanda: se la musica finisse domani e toccasse a voi salvare le tre canzoni più belle di sempre, quali scegliereste? C'è da scommetterci. Almeno una delle tre, è più probabile due per i malati di nostalgia, perfino tutte e tre, sarebbero canzoni di autori o gruppi che non esistono più. Per chiarire, non si intende scomparsi dalla scena musicale, no. Si intende che fisicamente quei cantanti o quella band non sono più fra noi. E tocca ammetterlo. Sono tanti, tantissimi quelli di cui ricordiamo album interi o brani legati a quel momento, quel giorno, quella persona. Magari canzoni di cui canticchiamo ogni tanto qualche strofa, un po' di melodia. Le colonne sonore delle nostre vite sono spesso pezzetti di vite altrui ormai perdute. John Lennon, David Bowie, Prince, Michael Jackson, George Michael, Lemmy Kilmister, Chuck Berry, Miles Davis, Whitney Houston, Elvis Presley, Leonard Cohen, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Oppure, se vogliamo rimanere qui da noi, Fabrizio De André, Lucio Dalla, Mia Martini, Pino Daniele. Fine del necrologio. E adesso, una notizia immaginaria e una vera. Quella immaginaria è una riunione tra i cantanti defunti di tutto il mondo. Un bel giorno si sono ritrovati in un non luogo della loro non vita e si sono detti che sarebbe stato bello e utile se sul pianeta Terra avessero avuto uno spazio esclusivo. La notizia vera, invece, è che quello spazio adesso è una realtà. Steve Penk, il noto DJ inglese ex di Virgin Radio, si è inventato Radio Dead, la prima web radio al mondo che, come si intuisce dal nome, trasmette 24 ore soltanto musica di artisti morti. Nel caso delle band, la regola è che non sia più in vita almeno uno dei componenti. La signora con la falce, avvolta in un lungo mantello rosso, è il simbolo dell'operazione. Di ogni brano trasmesso si può vedere online la copertina del disco da cui è tratto, il nome dell'autore e spesso anche la data di morte. A questo punto i cantanti superstiziosi sono autorizzati a fare i debiti scongiuri e a toccare quel che c'è da toccare. Racconta Steve: alcuni mi hanno contattato per dirmi che girano scommesse su chi sarà il prossimo a finire nella mia playlist. Certo, è un po' macabro. L'altro giorno Dennis Le Corrier, ex voce solista e chitarrista dei Dr. Hook, ha chiamato Radio Dead. Non avrete per caso messo in scaletta la mia Sexy Eyes o qualche altro pezzo, vero? E poi, che ci fa nella playlist Born to Run? Non sarà successo qualcosa a Bruce Springsteen? Hanno chiesto allarmati molti ascoltatori. La risposta, ovvio, porta il nome di qualcuno che non c'è più. In questo caso, Danny Federici e Clarence Clemons, tra i fondatori della E Street Band, assieme alla quale The Boss presentò al mondo quel disco diventato poi celebre. Ogni tanto lo slogan di Steve irrompe nella musica dei morti. They may be gone, but their music lives on. Avete ascoltato l'articolo di Giusy Fasano, La web radio dei cantanti morti, dal magazine 7 del 4 maggio. Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Il I treni regionali italiani non sono soltanto sinonimo di ritardi cronici e di servizi di ogni genere, ma sono anche il modo migliore per sperimentare l'effetto terremoto, come racconta Piero Bianucci in un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sulla Stampa. Di ritorno da Foligno, ho posato il tablet sul sedile del treno regionale che mi portava a Firenze e ho acceso la funzione sismografo. Ora so che il viaggio, 4 ore, si svolge dentro un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter, poco meno di quello che ha distrutto Amatrice. Un'applicazione simile, ma più nazionalista, adotta l'italica scala Mercalli, che non è calibrata sull'energia liberata dal sisma, come la Richter, ma sui danni del terremoto alle opere dell'uomo. Il vagone scuote i viaggiatori tra il quinto e il sesto grado Mercalli, quanto basta per far crollare i campanili e demolire i borghi medievali sugli Appennini. Interessante anche la misura del livello sonoro. Il fonometro certifica che il viaggio su rotaia avviene a 75-80 decibel, il rumore del traffico automobilistico nell'ora di punta. Non è ancora una discoteca, dove si balla a 100-110 decibel, ma ci avvicineremmo se nello scompartimento la conversazione riguardasse una partita di calcio. Quanto al rilevatore di campi elettromagnetici, traccia un grafico che oscilla su e giù tra picchi di alcuni micro Tesla. Facendo attenzione, si capisce che queste variazioni regolari corrispondono al passaggio del treno vicino ai pali della distribuzione elettrica. Per fortuna non soffro di tecnofobie, ma certi ambientalisti inorridirebbero. Il clinometro, infine, mostrerà che il vagone non è mai in piano e nemmeno in pendenza costante. L'inclinazione varia senza sosta sui tre assi cartesiani e costringe il passeggero a inconsapevoli ma costanti aggiustamenti di posizione. Insomma, il mal di mare non è semplice questione di acqua. Certo, da qualunque punto di vista lo si guardi, il confronto tra zone terremotate e Trenitalia è improprio. D'altra parte, anche il terremoto peggiore non dura più di mezzo minuto, mentre in treno passiamo giornate intere. Ci pensi la direzione di Trenitalia e non risponda che così, viaggiando in un terremoto perpetuo, pensate ai pendolari, gli italiani si allenano a convivere con i disastri naturali. Avete ascoltato l'articolo di Piero Bianucci, Se il vagone trema davvero come durante un terremoto, dalla Stampa del 3 maggio. La scarsa efficienza del trasporto pubblico è una delle ragioni per cui in Italia si continua a preferire l'auto per raggiungere il posto di lavoro. Con il risultato che gli italiani passano 23 giorni all'anno nel traffico, 128 minuti al giorno per gli spostamenti, ovvero un'ora in più a settimana rispetto alla media europea. In Europa solo i greci riescono a fare peggio, come rivela uno studio prodotto da Ipsos e Boston Consulting per la prima edizione dell'Osservatorio Europeo della Mobilità. Come racconta Paolo Brera in un articolo pubblicato giovedì scorso sulla Repubblica, 7 italiani su 10 sarebbero felici di sostituire le macchine con i mezzi pubblici, se solo questi fornissero un servizio decente. Gli italiani sono protagonisti involontari di un'odissea quotidiana, commenta il sociologo Marino Niola in un editoriale pubblicato sulla Repubblica a commento dei dati dell'Osservatorio. Un'odissea fatta di spostamenti e sbattimenti, incolonnamenti ed esaurimenti, corse e rincorse, discese ardite e risalite tra un tram e una metro, latitanti o insufficienti, e soprattutto costretto a passare più di un'ora al giorno nella solitudine della propria auto, imbottigliato nel traffico, in una condizione di cattività che incattivisce, perché aumenta la sensazione di essere soli e abbandonati. Insomma, ci sentiamo lontani da tutto, non solo dalla fabbrica o dall'ufficio, ma anche dalle istituzioni, che appaiono sempre più distanti dai nostri bisogni e aspettative. Il risultato è che ci sentiamo sempre più isolati in una periferia dell'anima dalla quale è difficile uscire. E viviamo il pendolarismo giornaliero come una fatica di Sisifo. Una spola coatta che si mangia il nostro tempo, lo rende più corto e febbrile rispetto a quello degli altri europei. Come se la nostra esistenza si svolgesse su un tapis roulant, correre, correre per restare fermi allo stesso punto. Forse per questo, quando andiamo in paesi come la Germania, la Francia, il Belgio, abbiamo l'impressione che la vita scorra più regolarmente, proprio come i grandi fiumi del nord, e che non sia necessario affannarsi per inseguirla come facciamo noi. Di solito, per compensare l'assenza di mobilità sociale, siamo costretti a una snervante mobilità individuale. Perché i servizi, i trasporti, le commodity che mancano, dobbiamo sostituirli schizzando di qua e di là, e il più delle volte inventarceli col sudore della fronte. Il paradosso antropologico è che, nonostante tutto, rimaniamo i più ottimisti d'Europa. Perché allo stato attuale non possiamo che migliorare? Forse, ma anche perché riusciamo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, perfino se l'acqua non c'è ancora. E così continuiamo imperterriti ad affannarci nel presente, correndo incontro al futuro. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Marino Niola, Il paese immobile costretto a un'eterna rincorsa, dalla Repubblica del 4 maggio. Come confermano anche i dati dell'Osservatorio Europeo della Mobilità, gli italiani devono rassegnarsi all'idea di dover passare in coda buona parte della loro vita. E lo confermano anche i recenti dati Codacons, non solo code in mezzo al traffico, ma anche code negli uffici postali, negli ospedali, al supermercato o nei musei. Non esistono formule magiche che permettano di risolvere questi problemi, ma forse esiste un modo migliore per passare il tempo e per rilassarsi durante le lunghissime attese, come racconta Anna Maria Speroni in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del Magazine 7. Ora di punta in un ospedale di Roma. Infermiera. Chi ha la visita alle 11? Si alzano 15 persone con prenotazione in mano, tutte per le 11. A parte il fatto che è già mezzogiorno e il primo deve ancora entrare, i 15 hanno la stessa domanda, che resterà senza risposta. Ma perché date appuntamento a tutti alla stessa ora? Il tempo sarà pure il bene più prezioso, eppure sprechiamo in coda 400 ore all'anno, dicono i dati Codacons. Rassegnati, remissivi, ormai quasi britannici nell'aspettare con pazienza il nostro turno, anche quando ogni disagio sarebbe evitabile con il buon senso di chi gestisce un servizio. E con un po' di matematica, magari. Teoria delle code è materia complicatissima che si insegna all'università, le cui formule astratte cominciano a essere usate per risolvere situazioni molto pratiche. Perché qualcosa sta cambiando. Provate per esempio a chiedere ai responsabili dei musei italiani, dei più visitati almeno, quale sia il problema che più sta loro a cuore. Prima del capolavoro da restaurare, prima dei prestiti sì o no, sono quei grupponi in attesa a stile Expo a preoccuparli. Se visiti la galleria dopo 4 ore trascorse in piedi, cominci già sfinito, dice Heike Schmidt, direttore degli Uffizi. L'obiettivo è non costringere le persone a rimanere fisicamente sul posto per mantenere il diritto al proprio turno. Bisogna fare in modo che quel tempo si possa trascorrere in modo piacevole visitando qualcos'altro o bevendo un caffè. Che l'utente sappia a che ora presentarsi senza poi dover aspettare. Magari grazie a un'app o a un SMS sul cellulare. Lo scrive anche il codologo David Andrews nel libro Perché l'altra fila è sempre più veloce. Ciò che conta non sono tanto i minuti o le ore che passi in coda, ma come il modo in cui aspetti influisce sulla tua percezione del tempo. Qualche anno fa uno studio danese, supportato da calcoli suggestivi, aveva provato a risolvere la questione in questo modo. Smettiamo di servire il primo che arriva, andiamo in ordine sparso, così a nessuno interesserà mettersi in fila. Evidentemente i ricercatori danesi non avevano mai avuto esperienza pratica della tipica coda all'italiana, dove l'ordine sparso genera liti e provoca stress. Comunque lo studio non ha avuto seguito. Più utili le app. In 5 anni, Curami ha totalizzato oltre 300.000 download. È una specie di totem virtuale. Prendi il numero come al supermercato, ma lo fai col telefonino e in più ti dicono quanto, più o meno, dovrai aspettare. Così potrai andare sul posto all'ultimo momento o quasi. Per gli anziani, dicono gli psicologi, le file hanno un valore sociale perché chiacchierano, passano il tempo e si sentono meno soli. Tornando agli Uffizi, lì la situazione è più complicata e mostra bene come per risolvere questo tipo di problemi la matematica sia utile, ma non basti. Per rendere fluido il percorso, infatti, si sta pensando a un vero e proprio riallestimento delle opere. Adesso tutti sono obbligati a vedere tutto, o piuttosto a camminarci davanti. Per uscire bisogna ripassare dal via come a Monopoli. Ma dato che la maggior parte dei visitatori è interessata solo ai quadri famosi, questi saranno sistemati insieme al piano nobile e il percorso cambiato in modo da poter scegliere. Guardo solo quelli e poi vado via senza creare ingorghi e infastidire chi si vuol godere anche i minori. Avete ascoltato l'articolo di Anna Maria Speroni, La scienza e l'incoscienza della coda, dal magazine 7 del 4 maggio.